Buongiorno Domenete, grazie per essere venuto qui a questa prima intervista che noi di evangelizzando.net volevamo proporre a un certo numero di persone. Poter avere un sacerdote del Brasile è un'occasione ghiotta, come si dice in italiano. Innanzitutto le chiedo chi è Don Menete? Bene, io sono un prete brasiliano, Benete, figlio di una famiglia povera, una famiglia con quattro fratelli. Sono stato ordinato nel 2004. Il mio vescovo mi ha chiesto di studiare a Roma per prepararmi a essere insegnante in Brasile, a fare un contributo alla formazione dei preti in seminario. Allora, venendo a questa breve intervista sull'evangelizzazione, innanzitutto una domanda di orizzonte per collocarci nella storia della Chiesa latinoamericana. Dopo l'assemblea della Chiesa latinoamericana di Aparecida, alla quale è intervenuto Papa Benedetto XVI, le chiedo, le pare che sia sorta una nuova sensibilità nelle comunità cristiane brasiliane nei confronti del compito evangelico che noi oggi chiamiamo evangelizzazione? In particolare, potrebbe descrivere per sommi capi la risposta attualmente offerta dalle chiese da lei conosciute nel continente latinoamericano all'esigenza delle nuove generazioni di ricevere l'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo? L'assemblea di Aparecida è stata accolta con molta speranza dalla Chiesa brasiliana. L'appello di una nuova evangelizzazione è proposto con una maggiore consapevolezza della necessità di chiamare ogni credente a vivere una gioiosa esperienza dell'incontro con Cristo come discepolo. E questa esperienza non può essere chiusa in se stessa. Mentre è vissuta nella comunione ecclesiale si diffonde nel servizio agli altri e nell'annunzio generoso del Vangelo a tutti. Aparecida ci ha parlato anche della necessità di una conversione pastorale. I fedeli e il loro pastore sono chiamati ad assumere un'azione evangelizzatrice che sia al di là di una mera pastorale di conservazione e che le strutture ecclesiali non siano troppo pesanti, ma favoriscano una pastorale accogliente e missionaria. Questo spirito missionario di Aparecida è stato molto presente nell'ultima assemblea della Conferenza Generale dell'Episcopato Brasiliano e ha condotto il lavoro dei vescovi nella proposta delle nuove linee direttive dell'azione evangelizzatrice per la Chiesa in Brasile. Con sguardo da discepoli e missionari, i vescovi hanno visto la realtà brasiliana e le sue sfide principali. Dopo hanno proposto le riflessioni sulla missione evangelizzatrice come offerta della Chiesa all'umanità mediante una testimonianza vivente e attraente, cioè avvicinandosi a ogni persona con un atteggiamento di servizio e di dialogo, con un'apertura della comunità alla diversità nell'esperienza profonda di comunione e infine con un annunzio cherigmatico e profetico. Il cherigma, come primo impatto dell'incontro con Cristo, deve essere presente come filo conduttore di tutta l'azione evangelizzatrice. I vescovi presentano il cammino della fede descritto nell'assemblea di Aparecida in cinque tappe: incontro, conversione, discepolato, comunione e missione. Fare che ogni persona si scopra nel cammino della vita e della fede è lo scopo dell'evangelizzazione. Con ciò la Chiesa vuole risollevare il volto dei poveri. Sono volti segnati dalla sofferenza e la Chiesa vuole essere ancella tra loro. e aiutarli a vivere la dignità dei figli di Dio, essendo loro protagonisti della propria vita. Bello. Padre Menete, la Chiesa Cattolica è universale. Anche nella nostra parrocchia, qua siamo nel Veneto, ad esempio, è diventato ormai normale godere in certi momenti dell'anno della presenza di sacerdoti e vescovi di altri continenti. Anche questo fatto qui in Europa sembrerebbe rinforzare l'idea consolidata, almeno qui in Italia, che l'evangelizzazione sia compito dei sacerdoti e dei religiosi. Nella sua diocesi brasiliana, i laici in che modo partecipano al compito missionario che è di tutta la Chiesa? Bene, io vengo dalla diocesi di Penedo, stato di Alagoas, nord-est brasiliano. Adesso la mia diocesi vive un tempo privilegiato dell'azione dello Spirito Santo. Noi diremmo una vera chiamata alla missione di tutte le forze viventi della Chiesa, laici, religiosi e pastori. Da noi si vive ai Santas Missões Populares. Le sante missioni popolari in italiano. Un svegliarsi per la missione. Lo scopo è rendere ogni parrocchia una rete di comunità missionarie, con un coinvolgimento soprattutto dei laici. Nessun quartiere o villaggio sarà lasciato fuori, perché i gruppi missionari si propongono di visitare e accompagnare ogni famiglia. I missionari ricevono una formazione mediante vari incontri spirituali e sono chiamati a vivere la missione come parte integrante della fede vissuta nella comunità. Loro sperimentano la forza del Vangelo mediante una lettura continua e orante della parola di Dio. Guardano la realtà con gli occhi della fede e condividono con gli altri le sfide di quest'oggi. È un'esperienza bella e coinvolgente. Ci sono tantissimi ostacoli, anche perché non sempre è facile scoprire che la missione tocca la vita di ogni credente. Siamo ancora molto legati a una pastorale dello status quo e ancora centralizzata. E nella nostra realtà complessa e maggiormente urbana, occorre fare un sforzo in più e non accontentarsi del ritmo di sempre. Navigare al largo, in acque più profonde, però senza affondare nell'attivismo o restare nella superficialità. Allora, animati dalla carità e vivendo una fede missionaria, cresce in noi la certezza che l'incontro con Cristo ci impegni alla missione. Non è possibile stare zitti e fermi. Anche oggi bisogna che ciascuno di noi rinnovi il suo incontro con Cristo e aiuti le persone a fare la stessa esperienza in maniera che sia Cristo il senso vero della nostra vita. E adesso una domanda un po' delicata, visto il continente da cui lei viene. Evangelizzazione dei poveri e dei ricchi. In Europa da qualche anno qualche cosa pare si stia muovendo, soprattutto a cura dei nuovi movimenti ecclesiali. E da voi in Brasile? Noi diremmo l'evangelica opzione preferenziale per i poveri. Dall'assemblea di Medellín 1968, la Chiesa latinoamericana è venuta facendo un cammino di conversione che in Aparecida è stato confermato e rinnovato. L'opzione preferenziale per i poveri è profondamente evangelica. Cristo si è fatto povero. Entrando in questo mondo ha cominciato a annunziare la buona novella tra i poveri e lui è stato solidale con la sofferenza degli emarginati della società. Sulla croce Gesù ha occupato l'ultimo posto per essere vicino a tutti noi. Nessuno è abbandonato da Cristo. Questo non significa che i ricchi non hanno bisogno del Vangelo di Cristo. La gioiosa speranza che si apre a tutti i poveri della terra è anche una chiamata di conversione a tutti coloro che si attaccano alle ricchezze di questo mondo. È la porta che si apre al banchetto del regno di Dio. Così la solidarietà diventa un altro nome dell'amore e un cammino di salvezza per tutti. Ma occorre capire bene che cosa significa la solidarietà. Non può essere paternalismo che genera una dipendenza sempre maggiore. La carità non si dimentica della giustizia, ma la presuppone e va al di là. Perciò in Brasile la Chiesa chiama alla solidarietà come a una forza che spinge all'assistenza ai poveri, ma anche alla ricerca della giustizia, ossia garantire politiche pubbliche e cambiamenti strutturali che favoriscano la dignità di ogni persona. È un servizio evangelico in cui lo scopo è promuovere l'uomo intero e tutti gli uomini. Così tutti noi siamo chiamati a entrare nella logica di Gesù. Ricordiamoci di Zaccheo. Luca 19, 1 a 10, Gesù lo incontra e lo aiuta a fare l'esperienza della conversione e della gratuità. Bello, un papa che, come dice il nostro papa Benedetto XVI, rimane sempre nel nostro cuore, nel cuore dei giovani, soprattutto Giovanni Paolo II. Nel 2001, con l'Anno Millennio in Eunte, ha invitato la Chiesa a riscoprire se stessa come casa e scuola di comunione. Qual è, secondo lei, il collegamento tra l'evangelizzazione e la spiritualità di comunione, caldeggiata più volte anche da Papa Benedetto? Non c'è evangelizzazione senza una vera esperienza di comunione. La comunione fraterna è una testimonianza vivente della presenza di Cristo. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri, dice Gesù. Davvero, l'esperienza dell'amore vicendevoli è la prova della fede. Una comunione che vuol dire condivisione, accoglienza, unità e servizio generoso, la gioia di camminare insieme con Cristo e di condividere lo stesso sogno del regno di Dio. La spiritualità di comunione ci ricorda che siamo discepoli prima di essere missionari e come discepoli siamo chiamati a metterci al fianco degli altri e a ascoltare il Maestro Gesù, a vivere unite ai nostri pastori la missione evangelizzatrice, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo che ci richiama all'unità della fede nella pluralità dei carismi. Secondo le direttive dell'evangelizzazione della Chiesa in Brasile, la testimonianza della comunione è una delle quattro esigenze dell'azione evangelizzatrice. Il mondo di oggi deve poter guardare ai cristiani come a una famiglia, dove i rapporti sono personalizzanti e umanizzanti, segnati dalla gratuità e dall'accoglienza. Così annunciamo una proposta concreta come risposta all'individualismo e alla tendenza di vivere la fede in modo intimista e senza impegno comunitario. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra fatica. Un'ultima domanda, Padre Menete. Che cosa proporrebbe lei, giovane prete, ai giovani cristiani italiani che guardano al futuro interrogandosi anche su quali siano le strade percorribili oggi per annunciare ai loro coetanei la novità e la bellezza del Vangelo di Cristo? Certamente non abbiamo una ricetta pronta. Come motivazione possiamo ricordare le parole pronunciate dal Papa Benedetto XVI all'inizio del suo pontificato. Chi fa entrare Cristo non perde nulla, nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. Diceva ancora il Papa, cari giovani, non abbiate paura di Cristo, egli non toglie nulla e dona tutto. I giovani credenti sono chiamati a contagiare il mondo attraverso la testimonianza dell'incontro personale con Cristo. Chiunque ha scoperto in Cristo la gioia della vita e il senso profondo dell'esistenza si avvicina agli altri, soprattutto a coloro che vivono la solitudine e sono presi dal luccichio del consumismo, della droga e dell'alcol. Avvicinarsi e offrire loro la meravigliosa notizia dell'amore di Dio che si è fatto dono di vita. L'ascolto della realtà, illuminati dalla parola di Dio condivisa in gruppo, e la partecipazione all'Eucaristia sono indispensabili per la nostra missione verso la società e verso il bisogno di ogni persona che troviamo nel cammino della vita. Grazie Padre Menete. Adesso io la ringrazio veramente perché con questa intervista si apre questo nuovo servizio che evangelizzando.net intende proporre nei prossimi mesi ai nostri ascoltatori. E comunque le chiedo in portoghese ovviamente di dare lei un saluto come figlio della Chiesa Universale che è in Brasile, un saluto e un augurio in portoghese ai nostri ascoltatori. Para mim é uma alegria poder participar desta missão que o Cláudio transmite a todos através da internet, a evangelização através dos meios de comunicação. E minha saudação é muito simples. Nestes dias tão complexos, tenhamos a coragem de anunciar o Evangelho de Jesus, cumprindo a sua palavra. De ir a todos os lugares, levando o anúncio do Evangelho de Cristo a todos aqueles que precisam ouvir e fazer a experiência maravilhosa da graça de Deus. Grazie ancora, Padre Benete. Pace e gioia!